Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Forse ci è ricascato. Alex Schwarzer, trovato positivo al doping. Lui respinge le accuse false e mostruose, annunciata una conferenza stampa per il pomeriggio. Allarme bomba, ora rientrato a Lille, dove questa sera si gioca Italia-Irlanda agli europei. Evacuato il compound della stampa, la partita è prevista per le 21. Maturità, primo giorno per 500.000. Per la prova scritta ci sono Umberto Eco, il suffragio universale, il PIL, l'uomo nello spazio e il rapporto tra padri e figli. Brexit, domani si vota, il nostro Independence Day, dice il leader del UKIP, Nigel Farage. Forse nuovi rilievi oggi nel Beneventano, dove una bambina di 9 anni è stata violentata e uccisa in una piscina. Il padre chiede una giustizia rapida, l'indagato si proclama innocente. Caos per l'afflusso alle passerelle di Cristo sul lago di Iseo. A Brescia 3.000 persone fermate in stazione, l'afflusso è troppo alto, 250.000 dal primo giorno e nuova chiusura notturna. 760 abitanti sul lago di Como. A Esino Lario si riunisce la comunità mondiale legata a Wikipedia. Saranno là fino al 28 giugno. Vengono da 30 paesi diversi. Parleremo col sindaco. Una buona giornata da Simone Spezia. Bentornati a Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. C'è anche il nostro canale Telegram per le anticipazioni. telegram.me/effettogiorno. Iniziamo dunque dalla vicenda di Alex Schwarzer. Risposta precisa sarà con questo progetto, dove poi nessuno potrà dubitare che io sono dopato o no, perché non lo so, perché è impossibile, e ci sarà una risposta proprio sulla strada. Così qualche tempo fa Schwarzer, dunque a 24 mattino, attenti a noi due, ospite dunque di Alessandro Milan e Oscar Giannino, e le notizie di oggi ci raccontano altro. Dario Ceccarelli, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Sì, aveva detto così, mai più nessuno potrà dubitare. Invece siamo di nuovo qui tutti a dubitare per questo nuovo test fatto ad Alex dall'Agenzia Mondiale Antidoping il 1 gennaio, durante le vacanze di Capodanno. Il problema è che ora diventa molto improbabile la partecipazione di Alex alle Olimpiadi di Rio, e poi rischia la radiazione a vita. Ecco, qual è la questione? La questione, infatti gli avvocati hanno detto no, questa è una mostruosità, non può essere fatta. La questione è questa, che il test risale al 1 gennaio, un campione di sangue e urine che aveva dato esito negativo anche a controlli successivi. Solo il 12 maggio, dopo la vittoria a Roma di Alex, in una verifica più mirata, sono venuti fuori gli esami diversi. Cioè il test ha riscontrato una quantità abnorme di anabolizzanti steroidi. E quindi la situazione cambia completamente. Sì, la situazione cambia completamente. È prevista una conferenza stampa per il pomeriggio, mi sembra di aver capito Dario, nella quale Schwarzer vuole dare i suoi chiarimenti, no? Esatto, e poi ci sarà soprattutto il professor Sandro Donati, che è uno dei paladini della lotta al doping in Italia, che ha seguito Schwarzer in questo diciamo percorso di riscatto, sì. No? E questo è il fatto che colpisce, perché la vicenda di Schwarzer era il simbolo del riscatto di un atleta colpito, macchiato dal doping, che cerca una strada nuova. In questo caso sarebbe una botta micidiale per lo sport e per l'atletica italiana. Evidentemente, atletica italiana, tra l'altro, che oggi insieme agli altri olimpici si riuniva al Quirinale proprio per ricevere dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le bandiere che verranno date ai nostri portabandiera. Ovviamente anche da là ci sono state reazioni, e su questo fronte, nel ringraziarti Dario Ceccarelli per questo aggiornamento, vi do una notizia che dobbiamo dire piuttosto particolare, perché gli ispettori della IAF questa mattina si sono presentati proprio al Quirinale per effettuare un controllo antidoping a sorpresa sulla marciatrice Elisa Rigaudo, mentre nei giardini si svolgeva la cerimonia della consegna del tricolore. Gli ispettori non sono stati ammessi al palazzo, cosa che ci sembra abbastanza normale. Il controllo, un test su sangue e urine, è stato rinviato al momento nella quale Rigaudo, con tutti gli altri azzurri, avrebbe raggiunto la Casa delle Armi al Foro Italico. Queste le notizie dal fronte del doping. Torneremo sullo sport più avanti per parlare degli europei, ma adesso andiamo alla maturità. Prima prova, primo giorno. Maria Piera Ceci, buongiorno. Sì, Simone, allora qualcuno sta già uscendo da scuola, quelli che hanno fatto un po' più in fretta, e fra un po' sentiremo il racconto degli studenti che stamattina si sono cimentati e molti si stanno ancora cimentando appunto con la prima prova scritta, quella di italiano, dunque il tema. Questi temi proposti con qualche argomento atteso e qualche sorpresa. Umberto Eco sulle funzioni della letteratura per l'analisi del testo, quindi una riflessione sull'intellettuale scomparso di recente. Per la traccia in ambito economico, una traccia invece sul PIL nel rapporto con crescita, sviluppo e progresso sociale. Il rapporto padre-figlio nelle arti e letteratura del Novecento per il saggio in ambito artistico, per il tema storico il suffragio universale con il primo voto alle donne, per il tema di attualità una riflessione sui confini, del resto il tema dell'immigrazione era ampiamente previsto, per il saggio breve in ambito tecnico-scientifico l'avventura dell'uomo nello spazio. Mai un testo sulle donne fra quelli proposti nell'analisi del testo, fa notare qualcuno con insomma un po' di critica, e Gay Center si sarebbe invece aspettato una traccia sul tema delle unioni civili, un tema che quest'anno ovviamente sul tema politico ha tenuto banco. La Giannini ha spiegato, il ministro Stefania Giannini ha spiegato che il filo rosso delle tracce sono stati i valori e l'identità, e ha anche fatto sapere che avrebbe scelto il testo su Umberto Eco, scomparso appunto di recente. Fra i materiali proposti anche un testo di Vittorio Sgarbi che dalla Sicilia, in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, denunciava la violenza mafiosa sul paesaggio con pale eoliche e fotovoltaico. L'abbiamo chiamato stamattina per farci un po' commentare questo suo discorso, soprattutto la scelta del suo discorso da proporre come tema della maturità. Sentite cosa ci hanno detto. Intercettato in carcere, Totolino dice: quel Matteo Messina di Naru ha fatto i piccioli con i pali eolici, vorrebbe dire che nasce la consapevolezza che il paesaggio è stato distrutto dalla mafia e che le lotte contro la mafia non vanno fatte inventando delle cose, delle bubole come mafia capitale e altre cose tipiche della propaganda giornalistica, della falsa antimafia, ma vanno fatte combattendo per difendere la bellezza, il paesaggio, quello che la Costituzione prevede, cioè bisogna essere concreti anche nella lotta alla mafia. Ecco, queste le parole di Sgarbi, che come sempre non la manda, come dire, a dire. E fra un po', dicevamo, allora Simone, sentiremo il racconto degli studenti che stanno cominciando a uscire alla spicciolata da scuola dopo questa prima prova scritta. Ti ringrazio, grazie alla nostra Maria Piera Ceci. Una sentenza arrivata poco fa, è una sentenza della Cassazione che riguarda, si parlava poco fa di unioni civili, la stepchild adoption, ossia l'adozione del figlio del partner nelle coppie omosessuali. Sentiamo. C'è un primo via libera della Suprema Corte all'adozione del figlio del partner, anche se condizionato. La Cassazione ha detto sì alla stepchild adoption, l'istituto che consente al figlio di essere adottato dal partner unito civilmente o sposato del proprio genitore, ma con un paletto, se nell'interesse del minore. Secondo la Suprema Corte, infatti, la stepchild adoption prescinde da un persistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempre che, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore. Una donna aveva chiesto di poter adottare la figlia della convivente. La prima sezione civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del procuratore generale in merito e confermato la sentenza della Corte di Appello di Roma, con la quale era stata accolta la domanda di adozione della minore proposta appunto dalla partner della madre. Le due donne convivono in modo stabile. Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, questa adozione non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l'eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Le cronache alla vigilia del referendum sulla Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, il nostro inviato Sergio Nava. Buongiorno Sergio. Sì, buongiorno Simone, buongiorno da Liverpool Street, siamo nel cuore di Londra, altissima la tensione oggi qui in Gran Bretagna, perché come dicevi si vota domani dalle 7 alle 22 ora locale, saranno 46 milioni e mezzo alla fine i votanti che andranno alle urne. Ricordiamo, il sistema inglese è abbastanza particolare, occorre registrarsi per votarsi, e oggi sono state rese noti i numeri finali, quindi 46 milioni e mezzo chiamati alle urne. I sondaggi sono ancora sul filo, oggi il quotidiano Metro titolava è impossibile insomma dare una previsione precisa, perché too close to call in inglese, cioè troppo vicini per essere definiti i risultati, ed è una giornata di campagna per i principali leader politici. Parlano o hanno parlato David Cameron, il Premier, insieme a Jeremy Corbyn, che è il leader dei laburisti, e da una parte parlerà anche Boris Johnson, cioè l'ex sindaco di Londra, e ha convocato una conferenza stampa oggi anche Nigel Farage, il leader dello UKIP, il partito appunto indipendentista che per primo ha proposto di lasciare l'Europa, ha detto domani sarà il nostro giorno dell'indipendenza, referendum è un referendum del popolo contro l'establishment. Sono orgoglioso, ha detto Nigel Farage, di come abbiamo cambiato la politica britannica, perché l'Europa è un grande cartello del business dove la legge comunitaria, la legge europea sovrasta quella dei nostri tribunali. Quindi diciamo al momento è stato Farage quello che ha lanciato il messaggio più forte, ma in giornata appunto sono attesi anche gli ultimi appelli di Cameron Corbyn e degli altri appunto rappresentanti della campagna per il restare o della, appunto per la Brexit. Chiaramente vi terremo aggiornati nel corso della giornata. Da Londra è tutto. Ti ringrazio, grazie a Sergio Nava per questo aggiornamento dalla politica britannica a quella italiana, discussione tutta interna al Partito Democratico dopo la sconfitta nei ballottaggi. Dopo la sconfitta elettorale delle comunali, Matteo Renzi guarda la segreteria del PD in agenda per venerdì, un appuntamento che servirà a fare chiarezza all'interno del partito dopo il naufragio di domenica e le critiche arrivate dalla minoranza. All'orizzonte c'è ora il referendum costituzionale di ottobre. Il presidente del Consiglio e segretario del PD vuole una svolta nel partito per rafforzare la macchina organizzativa e la presenza sul territorio. Una richiesta che arriva da più fronti. L'affondo più duro è dell'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema. Renzi, dice, ha perso la sintonia con la base e con il paese, non si è limitato a rottamare un gruppo dirigente del partito, sta rottamando milioni di elettori. In un'intervista al Corriere della Sera, D'Alema annuncia anche che al referendum di ottobre voterà no. Una richiesta di cambiamento arriva anche dal padre fondatore del PD, Romano Prodi. 2 anni di governo e la mancanza di risposte efficaci, spiega in un'intervista a Repubblica, bastano per logorarsi. È necessario cambiare politiche anche perché l'ascensore sociale è bloccato e si soffoca. Pierluigi Bersani, infine, reclama un cambiamento dell'Italia, come la legge elettorale, e chiede di aprire un dialogo con i grillini. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore Roma. Sotto riflettori ancora a Roma, fase di composizione della giunta per Virginia Raggi, che oggi si insedierà, mentre si parla per gli assessori di un contratto con il quale li si vincola a seguire le indicazioni del cosiddetto staff, pena una multa da 150.000 euro. Paolo Berdini dovrebbe diventare assessore all'urbanistica e questa mattina è stato ospite di 24 Mattino. Sentiamo come ha risposto. Vediamo che tipo di contratto mi verrà sottoposto. Insomma, i contratti vanno visti sempre con molta attenzione, come sapete bene. Cioè, io trovo strano, la ricerca dell'etica pubblica non passa, posso dire, per un contratto, passa per la storia delle persone. Poi c'è la magistratura. La cronaca con la vicenda della bambina trovata morta nella piscina. Continua a difendersi, ripete di aver dato alla bambina solo un passaggio in auto. Daniel, il 21enne, iscritto nel registro degli indagati per la morte di Maria Ungureanu, la bimba trovata senza vita in una piscina a San Salvatore Telesino. Il giovane è stato ascoltato a lungo dagli inquirenti. I sospetti sono concentrati su di lui perché alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto quello che era un amico di famiglia in auto con Maria poche ore prima che se ne scoprisse il decesso. Quel che è certo è che la bambina aveva subito violenza e non era la prima volta. Forse, è una delle ipotesi, la sera dell'omicidio aveva tentato di ribellarsi. Dall'autopsia sono stati rilevati dei graffi sulla schiena, ha rivelato oggi il legale della famiglia. L'ennesima vittima di violenza in una campagna che fa i conti con una realtà pesantissima. Ci sono intere zone, denuncia il garante dell'infanzia e dell'adolescenza Romano, in cui l'abuso sessuale e l'incesto sono elevati a normalità. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo agli europei di calcio. Qualche coro notturno dei tifosi irlandesi raccolto nella notte appunto dal nostro Dario Ricci, che è inviato a Lille dove questa sera l'Italia affronta appunto l'Irlanda. Dario, buongiorno. Buongiorno, buongiorno da Lille, Simone. Beh, direi mattinata movimentata, perché la notizia della mattinata è stato questo allarme bomba, fortunatamente poi non concretizzatosi in nulla di serio, al compound media dello stadio Pierre Marois, dove questa sera alle 21 appunto affronteremo gli irlandesi. I cani antiesplosivi avevano fiutato qualcosa, immediata l'evacuazione del compound stesso, poi l'allarme fortunatamente è rientrato. E allora si può parlare di calcio, di una partita che al contrario di altre che si sono svolte qui a Lille, si svolge in un clima assolutamente sereno. Tantissimi gli irlandesi, anche quelli che ci stanno attraversando la strada davanti in questo momento, saranno circa 15.000, festosi, rumorosi come abbiamo sentito, ma sicuramente lontani dagli hooligans inglesi, e russi e gallesi. Per quanto riguarda le notizie della formazione azzurra, pensiamo già alla Spagna il 27 giugno a Parigi, perché quello è l'ottavo di finale che questo stranissimo europeo, così sbilanciato nelle due parti del cartellone, ci ha regalato. Questa sera Conte farà turnover, però già si discute sul fatto che potrebbe far giocare Bonucci. Perché questo? Perché Bonucci è sicuramente giocatore chiave per questa nazionale, è però ammonito, quindi prendere un'eventuale altra ammonizione in una partita che per noi conta di fatto nulla sarebbe davvero un peccato. Staremo a vedere quali saranno le ultime decisioni di Conte. Alle 21, calcio d'inizio qui al Pierre Marois. Per il momento da Lille è tutto. Ti ringrazio, grazie anche al nostro Dario Ricci, inviato a seguire gli europei di calcio. Adesso ci fermiamo, c'è il traffico, nella seconda parte della trasmissione andremo subito a parlare con il prefetto di Brescia per capire qual è la situazione per quanto riguarda le passerelle di Criso sul lago di Iseo, perché ci sono ancora molti e tantissimi problemi organizzativi, 3.000 persone ferme in questo momento nella stazione di Brescia perché sostanzialmente là non ci si può arrivare, stanotte un'altra chiusura notturna. E poi parole che ieri ci hanno colpito molto, sono quelle del garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Campania, che ha detto: in alcune zone di Napoli l'incesto, oltre che la pedofilia, è la normalità. Ed è con lui che parleremo. Traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di Alex Schwarzer, che è stato trovato a quanto pare positivo al doping, e lui respinge le accuse false e mostruose. Questo è quello che dice l'avvocato. È stata annunciata una conferenza stampa per il pomeriggio e vedremo che cosa avrà da chiarire. Abbiamo parlato a proposito di sport e di europei di calcio, l'avete sentito alla fine, questa sera si gioca Italia-Irlanda alle 21. Abbiamo parlato della maturità, perché il primo giorno per mezzo milione di persone per la prova scritta ci sono Umberto Eco, il suffragio universale, il PIL, l'uomo nello spazio, il rapporto tra padri e figli. Abbiamo parlato anche della Brexit, abbiamo parlato della vicenda terribile della bambina trovata morta in una piscina e sarebbe stata violentata. E continuiamo dunque a parlare a questo punto di violenza sui minori, e dovremmo avere in linea Cesare Romano, che è garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza della regione Campania. Buongiorno e benvenuto. Ce l'abbiamo? Sì, buongiorno, sento un po' male. Sì, buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Buongiorno, buongiorno. Allora, lei, ieri abbiamo letto delle frasi nelle agenzie, poi riportate oggi dai giornali, che ci hanno colpito molto. Lei ha parlato di intere zone di Napoli, da qua iniziamo il nostro giro per l'Italia, dunque da Napoli e dintorni. Ha parlato di intere zone, alcune zone, quelle più degradate evidentemente di Napoli e del circondario di Napoli, nelle quali la pedofilia, la violenza sessuale e l'incesto addirittura sono elevati a normalità. Sì, guardi, perché l'aspetto di abusi intrafamiliari riguarda due elementi fondamentali. Il primo, che è quello culturale, di deprivazione di valori morali, etici ed altro, dove i figli sono ancora considerati degli oggetti, e dove abbiamo raccolto alcune testimonianze che non sono nella ricerca, perché non ho elementi scritti, ma le abbiamo raccolte da ragazze che vivevano e vivono in questi quartieri, e ci hanno confermato che loro sono state abusate in famiglia da piccole, così come tutte le loro amiche e così come le amiche delle amiche. Ergo, voglio dire, la formula poi è palese, diventa normalità, vuol dire che è un fatto che avviene puntualmente e normalmente. Normalmente, normalmente parlava, mi scusi, sì, un elemento importante. Normalmente sì. Vuol dire che c'è anche una sorta di accettazione sociale in queste aree per comportamenti di questo tipo? Fondamentalmente sì, anche perché sono aree in cui, voglio dire, le istituzioni spesso sono un po' assenti. Le istituzioni sono assenti e mi sembra che lei abbia detto ieri che è assente anche la Curia, tra l'altro. Sì, io dalla Curia avevo ricevuto la rassicurazione che il questionario che avevamo preparato sarebbe stato somministrato a tutte le parrocchie della Campania, e visto che era un questionario anonimo non ne ho ricevuto neanche una. Nemmeno una. Che vuol dire che probabilmente si è deciso di non farlo viaggiare sulle parrocchie. Cioè, a suo giudizio, la Curia vuole tenere sotto traccia, nascosto tutto questo? Guardi, questo non lo so, bisogna chiederlo alla Curia. Bisogna chiederlo alla Curia, però insomma la sensazione da quel che ci ha detto è questa, evidente. Allora, a tutti noi viene in mente, Romano, la vicenda della quale abbiamo lungamente parlato, che è la vicenda di Caivano, della piccola Fortuna, morta, adesso c'è una persona in carcere, così via. E quello che ci sta rappresentando lei è che in realtà quello è tutt'altro che un caso isolato. No, perché esiste una percentuale abbastanza alta di quelli che sono abusi intrafamiliari dovuti a devianze sessuali. Chiaro che poi l'omicidio è ancora altra cosa. Sì, chiaramente. Certo. Qualche ascoltatore ci scrive ovviamente perché la cosa suscita no? stupore e, se vuole, anche per certi versi anche dibattito. Un ascoltatore dice: perché dite questo? Cosa sono pettegolezzi? E se sono certezze, perché non denunciate? Beh, noi ti stiamo denunciando attraverso questa ricerca, che ovviamente è stata realizzata su un campione rappresentativo, cioè il 12% dei comuni della Campania, dove abbiamo registrato ben 200 casi di abusi su minori. Se lei fa una proiezione di questi dati in termini statistici su tutto il territorio della Campania, si accorgerà che i dati sono molto molto più elevati. Quante persone avete interpellato per questa ricerca? Quante persone hanno risposto? No, hanno risposto, le ripeto, 45 comuni e 31 ambiti. Gli ambiti ovviamente sono un consorzio di comuni e ASL. Immagino con una concentrazione in alcune zone specifiche. È stato fatto abbastanza a macchio di leopardo su tutto il territorio della Campania. Però, le ripeto, è chiaro che ci sono delle zone più sensibili e altre no. La ringrazio, grazie Cesare. Grazie Romano, garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza della regione Campania. Noi cambiamo decisamente argomento e cambiamo anche zona nel nostro giro per l'Italia. Ci spostiamo sul lago di Iseo, dove siamo andati spesso nelle settimane scorse in preparazione di questa grande opera realizzata dall'artista bulgaro Cristo, queste passerelle sul lago di Iseo, che da quel che vediamo, anche da quello che raccontano le agenzie, stanno creando parecchi problemi per il grande afflusso di gente che c'è in queste ore. Valerio Valenti, prefetto di Brescia, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Oh, da quel che ho capito, al momento, tra l'altro, in stazione a Brescia ci sono 3.000 persone ferme che non possono evidentemente arrivare a Sulzano, perché a Sulzano, che è il paese dal quale partono le passerelle, c'è troppa gente. Abbiamo 3.000 persone in attesa alla stazione di Brescia e il piazzale antistante l'ingresso delle passerelle a Sulzano è saturo con 4.000 persone, che sono il limite massimo di capienza. Quindi si tratta di gestire da parte nostra nel migliore dei modi, da parte degli utenti con tanta pazienza questa attesa, ma il risultato dell'opera di Cristo è davvero straordinario e sta continuando ad attrarre migliaia e migliaia di visitatori. Sì, questo lo vediamo. Mi sembra di aver capito che siamo oltre i 250.000 nei primi 4 giorni. 270.000 al momento le persone che sono arrivate. Mi scusi, prefetto, lei si è coordinato ovviamente anche con i sindaci, con l'organizzazione in questi giorni. C'è stato, diciamo, ci diceva uno dei sindaci della zona, abbiamo messo su un'unità di crisi che più o meno era simile a quella dell'Expo, insomma, ovviamente scherzava, esagerava, però più o meno è così. Le sembra che l'afflusso sia eccessivo al momento? Cioè, si riesce a contenere questa situazione o può rappresentare un problema? Non si riesce a contenere perché è come un fiume che da qualche parte deve trovare comunque sbocco. Si devono conciliare due esigenze: l'esigenza del visitatore di arrivare sul luogo prima o poi, ma di arrivarci, perché il desiderio è quello, e dall'altra quello di garantire anche condizioni di incolumità pubblica e di sicurezza tali da non mettere a repentaglio ovviamente appunto questi primari valori della convivenza civile. Quindi è un compito assai difficile. Devo dire che però il bilancio dopo questi 4 giorni è un bilancio positivo, sì, anche dal punto di vista dell'organizzazione, perché al di là delle attese che sono uguali a quelle che il visitatore fa per visitare la Cappella Sistina o il Louvre, non so quale altra opera del mondo, ecco, il sistema ha funzionato ed è stato, con interventi a volte anche spot, nel senso in ragione di quelle che sono le situazioni contingenti, certo, è stato gestito. Come il fatto appunto di fermare i treni oggi a Brescia perché il Piazzale Sulzano era troppo pieno e quindi insomma bisognava inevitabilmente fermare le persone. Immagino che questo poi abbia degli effetti a catena, suppongo, prefetto, perché no, uno ferma la gente a Brescia, nel frattempo arrivano altri treni di gente che vuole arrivare a Sulzano e saranno fermati anche quelli, suppongo, no? Non vi è dubbio. Inevitabile. In questo gioca una partita importante, anche se non assolutamente decisiva, anche la comunicazione e l'informazione. Certo, e anche per questo l'abbiamo chiamata. Senta, ci può aiutare a capire come possiamo dare qualche consiglio agli ascoltatori che volessero andare a vedere quest'opera, che lo ricordiamo, è là fino al 3 di luglio? Sì, è lì fino al 3 di luglio e poi mai più, come dice Cristo. Sì. Ecco, in pillole vorrei dire questo. Ci sono diversi sistemi, in questo momento il treno è quello più gettonato, però dall'altra parte noi abbiamo nei mesi scorsi disincentivato l'uso dell'automobile, in realtà sì, oggi notiamo che questo messaggio è forse stato eccessivamente recepito e i parcheggi a volte hanno ancora una notevole sono vuoti. Però mi sembra di aver capito che, dato che domani c'è lo sciopero dei treni, insomma, immagino che i parcheggi si riempiranno automaticamente. Devo dirle che abbiamo valutato anche questo aspetto anche insieme al collega di Milano. Si tratta di una sigla minoritaria e quindi crediamo che non abbia delle conseguenze come dire, poi realmente incisive su quella che è la capacità di trasporto dei treni. Noi stiamo valutando, ma proprio in queste ore, guardi, mentre parlo con lei c'è un tavolo nella stanza accanto che sta lavorando, stiamo valutando anche un'ipotesi, insieme anche a richiesta della stessa organizzazione, della stessa Floating Piers, stiamo valutando una chiusura permanente notturna, perlomeno nelle ore che vanno da mezzanotte alle 6, e questo perché da una parte l'opera si sta usurando più del previsto, i 270.000 spettatori hanno prodotto un risultato in termini proprio di usura dell'opera che è uguale a quella che l'artista immaginava a metà dell'esposizione, e quindi si rende necessario intervenire con proprio un rammendo o una sostituzione. Sì. Del telo anche in alcuni punti con problematiche di esposizione a rischio di lievo calpesta, perché ci sono dei chiodi che magari che possono venire fuori dalla struttura, e quindi sì, questo è necessario. Dall'altra, il sindaco di Montisola, sì, che è l'isola che sta proprio al centro del sì, lago, ha ovviamente delle esigenze di igiene pubblica, cioè di svuotamento e di pulizia dell'isola, che non riescono a essere garantite in costanza di visita da parte di questa migliaia, sì, di questi migliaia di e quindi bisogna interrompere in qualche momento. E quindi abbiamo bisogno di qualche ora notturna per poter fare questo lavoro. Al momento è stato fatto in forma spot, ma abbiamo bisogno di metterlo sì, a sistema. Quindi vederlo di notte sarà possibile fino a mezzanotte e dalle 6 del mattino in poi. Però stiamo mettendo a punto proprio adesso questa modifica del programma. Mi scusi, prefetto, allora qualche ascoltatore ci scrive in merito e quindi io glielo chiedo. Noi sappiamo benissimo che Cristo stesso, e così come l'organizzazione del Floating Piers, ha voluto che la cosa fosse libera e senza prenotazioni, ma non sarebbe il caso di imporgli, per questioni di ordine pubblico, di impostare un sistema di prenotazione? Guardi, la tenuta dell'ordine e della sicurezza pubblica è stata garantita finora e noi abbiamo fiducia, insomma, siamo convinti che possiamo gestire l'evento ancora nelle medesime condizioni. Sì. La volontà di imporre un biglietto non può essere, non può essere valutata. Non ultima può essere valutata, l'artista l'ha immaginata così e credo che non accetterebbe assolutamente nessun tipo di modifica. E secondo lei non accetterebbe nemmeno un prolungamento visto quel che... No, ne abbiamo già parlato, l'artista è un artista e come tale ha deciso e immaginato l'opera in un certo modo, non intende assolutamente nessuna modifica all'infuori di questa che le sto appena annunciando, sì, della chiusura notturna. Però ecco, è proprio lui che lo chiede a questo punto. La ringrazio, grazie Valerio Valenti, prefetto di Brescia. Non dubito che torneremo a sentirci nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Qualche ascoltatore ci dice oggi è consigliabile andare ad Iseo. Vi abbiamo appena detto, ci sono 3.000 persone ferme nella stazione di Brescia che chiudono un'altra volta a mezzanotte alle 7 del mattino. Io no, non lo so, cioè, però se uno se la vuole tentare, se la tenti. Ci fermiamo, c'è la borsa, poi ci ritroviamo, torniamo a parlare di assenteismo per una storia che coinvolge nella pubblica amministrazione 766 persone in una stessa struttura. Un ospedale di Salerno e poi la riunione di Wikipedia in un paesino sul lago di Como, persone da 30 paesi del mondo. Effetto giorno. Effetto giorno, notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: la maturità il primo giorno per 500.000 per la prova scritta Umberto Eco, il suffragio universale, il PIL, l'uomo nello spazio e il rapporto tra padri e figli. Forse c'è ricascato, Alex Schwarzer trovato positivo al doping, lui respinge le accuse false e mostruose. Intanto gli ispettori della IAF tentano di fare irruzione al Quirinale per un controllo antidoping a sorpresa sulla marciatrice Elisa Rigaudo durante la cerimonia di consegna delle bandiere. Allarme bomba, ora rientrato a Lille dove questa sera si gioca Italia-Irlanda agli europei, evacuato il compound della stampa, la partita è per le 21. Brexit, domani si vota il nostro Independence Day, dice il leader del UKIP Nigel Farage. La borsa. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play, play with the playmakers. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo e proseguiamo il nostro giro per l'Italia e ritorniamo in Campania, in questo caso a Salerno, all'ospedale Ruggi, dove si apre un secondo filone di inchiesta sull'assenteismo. Secondo filone che vede sotto la lente di ingrandimento della procura 766 lavoratori dell'ospedale. 766, il tema è sempre quello: quelli che timbrano e se ne vanno, quelli che si fanno timbrare da altri. E adesso c'è anche l'associazione a delinquere. Marcella Cavaliere è una collega giornalista del quotidiano La Città di Salerno. Marcella, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Allora, 766 persone, ovviamente ci saranno casi che andranno vagliati accuratamente, ma la cosa che ci interessa è che c'erano addirittura dei gruppi organizzati ed è qua che, no, il PM contesta l'associazione a delinquere. Sì, proprio così, non solo il reato di truffa ai danni dello Stato, ma in questo secondo filone dell'inchiesta sull'assenteismo è emerso proprio questo, cioè l'organizzazione sistematica per trovarsi il cartellino timbrato senza essere presenti sul posto di lavoro. Ovviamente rispetto ai 766 nomi del secondo filone dell'inchiesta, la Procura ha individuato alcuni gruppi che sono lì dallo stesso obiettivo, cioè di coprirsi a vicenda e deludere i controlli. In particolare sono 18, 18 gruppi. In tutto, 18 gruppi, 13 dei quali formati da persone che erano in servizio nello stesso reparto, nel senso che lavoravano nelle stesse divisioni e si organizzavano con i colleghi con i quali erano più stretto contatto. Altri 10 invece hanno una posizione diversa, nel senso che si consortavano in che modo? Non solo con un gruppo, ma con più gruppi. Quindi questo è quello che contesta. Un'organizzazione capillare, cioè c'era più gente che pensava ad organizzare questo che a lavorare sostanzialmente. Sostanzialmente sì, secondo la procura sicuramente sì. Non è finita qui, nel senso che l'elenco non è completo, dovrebbero arrivare ancora altri nomi che in questo caso riguardano i docenti universitari, perché il Ruggi d'Aragona è un'azienda mista ospedaliera universitaria e anche da questo punto di vista probabilmente ci sono ancora altri nomi, quelli dei docenti. Perché? Perché in seguito delle direttive dei decreti regionali anche l'azienda si era adeguata per fare in modo con delle delibere che anche i docenti docenti utilizzassero il badge aziendale. Sì. Il punto è che non tutti i docenti lo hanno ritirato e non tutti hanno timbrato, quindi probabilmente sì. Nel sottolineare l'ingrandimento in questo momento c'è anche quest'altro corpo docente. Anche questo. Si diceva 766 dipendenti, ma quanti sono i lavoratori dell'ospedale? 1.600, però considera non soltanto di questa azienda, perché essendo un'azienda sì. È collegata anche ad altri presidi, quello un presidio in Costiera Amalfitana, quindi a Ravello, un altro nella Valle dell'Irno a Mercato San Severino, un altro a Cava dei Tirreni e poi anche a Salerno, l'ospedale da Procida è collegato sempre alla stessa azienda, quindi parliamo comunque di più presidi messi insieme, va bene, insomma, quindi comunque mi sembra una discreta cifra a prescindere. Ti ringrazio, grazie a Marcella Cavalieri, giornalista della città di Salerno, che sta seguendo questa vicenda, la città di Salerno, il quotidiano che si chiama La Città di Salerno. Per chiudere, una storia un po' più leggera: Pietro Pensa, sindaco di Esino Lario, paese di 760 abitanti, 761 per essere esatti. Pensa, mi sbaglio? Sì, 761. È corretto. Sul lago di Como, e che ospita la riunione di tutti gli wikipediani del mondo, sono da 30 nazioni. La cosa che 52. Voglio 52 addirittura. Allora ho sbagliato anche nei titoli. Senta, Pensa, mi il dice il paese Esino, proprio rossitano. Esino. Bene, allora due errori in uno. Allora, 52 nazioni e Esino Lario. Allora, mi dice come mai hanno scelto Esino Lario, perché questa è la cosa che ci stiamo chiedendo tutti. A Esino abbiamo fatto un progetto, la promotrice Yolanda Pensa, mia cugina, che già nel 2012 ha incominciato a parlare di questa cosa. Abbiamo fatto un progetto credibile per un evento a costi bassi, un evento realizzato in maniera non convenzionale, una cosa innovativa, anziché ritrovare tutti in un albergo e sale riunioni prestabilite, abbiamo deciso di presentarci al mondo con un progetto che prevedesse un alloggio in un albergo diffuso, quindi nelle case dei cittadini di Esino, perché non abbiamo strutture alberghiere di queste dimensioni, e con le conferenze che si svolgono nelle varie località dove si è potuto organizzarle, sì. All'aspetto dello sport, ex cinema, ex museo, asilo, un modo di rivitalizzare il paese, perché l'altra contendente era Manila, stiamo parlando della capitale, sì, delle Filippine, insomma, cioè Manila, sì, versus Esino Lario, vince Esino Lario. Abbiamo vinto noi. La nostra capacità progettuale e l'innovazione che abbiamo proposto è stata vincente. E quanto rimarranno e quanti sono in tutto? I congressisti saranno un migliaio, ne sono già arrivati quasi 600, attendiamo gli altri arrivi, attualmente c'è l'aeroporto di Malpensa, volontari dell'ITC di Busto, coordinati da mia moglie, che vengono raccolti su pullman e trascinati su a Esino. Arrivano, scendono dal pullman e vengono accolti subito dai proprietari delle case, che li prendono e li accompagnano nella futura abitazione per la prossima settimana. Niente male, ottime idee anche per chi vuole provare a rivitalizzare il suo di territorio. Grazie a Pietro Pensa, sindaco di Esino Lario, per essere stati con noi. E per essere stato con noi, il traffico, il nostro Mario Platero. Ci risentiamo alla fine per i saluti.